Allora, io vi faccio magari un breve intervento visto da come, sotto vari passaggi di realtà, no? Allora, vabbè, si presento la giornata alla parte dei tavoli di domani, che diciamo appunto visto quello che era, il lavoro che era stato fatto a Napoli, si è pensato di dividerli in solo due tavoli per cercare di focalizzare in una modalità diversa. E c'è stata una divisione, diciamo, di scala, no? Degli effetti della turistificazione, quindi una scala territoriale e una scala del quotidiano, dell'abitare. Quindi questi tavoli, diciamo, sono divisi tra la mattina e il pomeriggio, col tentativo di dire, nella mattina, di affrontare quelli che sono gli effetti della turistificazione, quindi anche, insomma, le debolezze, le minacce che si presentano appunto per quello che è appunto la vita nella città, e nel pomeriggio invece di condividere quelle che sono le pratiche invece di resistenza e di costruzione di abitare alternativo a quello che è, diciamo, il modello dominante, quindi con l'obiettivo di arrivare in fondo avendo trovato un po' le linee comuni di quelle che sono le modalità di attacco dei territori da parte del capitale finanziario e insomma delle politiche anche che lo sostengono, e però insomma anche di essere stati in grado poi di condividere quelle che sono anche la ricchezza di pratiche che si portano avanti, anche insomma nelle differenze di quello che sono, che sono le differenti culture locali, le differenti città, eccetera. Quindi questo è un po' il discorso tavoli tematici di domani, senza stare a dilungarsi, che appunto ricordiamo di nuovo, penso che abbiate capito al Next Edison domani alle 10:30. Poi insomma, prima di passare la parola, appunto, dico due parole magari come collettivo di architettura. Passando anche per gli spazi faccio un ventaglio no, però appunto è stato molto buono l'intervento, diciamo, preso parte, diciamo, di quello che diciamo era l'idea che c'era dietro, perché come collettivo di architettura l'idea di portare qua dentro questa serata era legata proprio a questo discorso che è iniziato tempo fa, insomma, il collettivo di architettura qua dentro, purtroppo appunto quello che noi viviamo è che, ora non tutti, non voglio parlare, però tra i nostri professori ci sono quelli che hanno progettato lo Student Hotel, ci sono quelli che hanno progettato questa piazza qua davanti, cioè noi comunque tendenzialmente ci troviamo davanti a dei docenti che sono i collaboratori di questo progetto, non tutti. Molti, la speranza di portare qua dentro questa azione era quella di parlare agli studenti e anche a quei professori che magari insomma non sono propriamente conformi a quella linea. È un lavoro che stiamo facendo da tempo, il discorso apriamo l'università alla città, è un discorso che stiamo portando avanti da tanto. L'anno scorso abbiamo, per esempio, ho fatto un'occupazione di alcuni giorni nel fine settimana per parlare di tematiche legate appunto alla guerra in Siria e all'aggressione ad Afrin, come abbiamo fatto una serie di iniziative che cercano di collegarsi il più possibile anche col fatto di essere dentro un quartiere ancora vivo e preda di questa aggressione, perché noi lo stiamo vivendo, chi abita all'università lo vive. Appunto il mercato è un terreno di aggressione dove la politica ha deciso di investire per riqualificare, ma ormai anche quelli che hanno i banchi capiscono che quando viene detta questa cosa loro sono in pericolo, no? Cioè, lo dice il lampredottaio, non c'è bisogno dell'ordinario di urbanistica. Però pare che l'ordinario di urbanistica invece questa cosa non la capisca bene, e questa cosa sembra legata al fatto che appunto l'università con la città non ha niente a che vedere, si parla una specie di metalinguaggio interno e non si cerca di agire e di aprirsi qua, per fare un esempio pratico, ma appunto si sta costruendo un nuovo ingresso sulla piazza, no? Una piazza che è stata tra l'altro progettata da anche professori appunto dell'università. Noi stavamo lavorando l'anno scorso, appunto, avevamo liberato uno spazio che era abbandonato dalla stessa università da un bel po' di tempo e che da anni veniva fatto funzionare tendenzialmente dagli studenti ogni tanto, e si è iniziato a usare in maniera più continuativa, e c'era anche un buco nel muro, no? Quindi noi stavamo ragionando di aprire questo spazio effettivamente e di creare quello che potrebbe essere in versione, diciamo, per bene, un urban center, no? Cioè un luogo di riflessione di questo tipo. Una cosa che può arrivare alla mente di semplici studenti non ancora laureati, no? Mentre si va a fare un nuovo ingresso e non è previsto, cioè è previsto di allineare una specie di tettoia all'asse del convento antico, perché questo ricollega alla città. E questo è il metalinguaggio, cioè nel senso, ricollega alla città, una tettoia non ricollega alla città, cioè servono degli spazi di dialogo tra l'università e la città, dove quello che si ragionava dentro diventa parte della città, no? Cioè, l'esempio banale di architettura, di cosa vuol dire, no? Questo metalinguaggio e di come la stessa università agisca in questo modo, quindi in funzione di quelle che sono queste direzioni. Io spero che gli studenti appunto possano essere, come sono stati già nel passato su altre tematiche, quello che poi guida di fatto il percorso che si sta facendo qua dentro e che da un po' di anni, diciamo appunto dall'alto, non riceve grandi stimoli. Perché si lavora tanto, ci sono centinaia di studenti che tutti i giorni producono e ragionano sulle cose e il cui lavoro non viene messo a frutto, e questa è una frustrazione per tutti, credo, quelli che stanno qua dentro. E oltre a questo c'è anche una questione reale di vita, cioè un'altra questione che non viene affrontata, è sempre molto marginale su tutti gli aspetti. Gli studenti in questo periodo sono stati atomizzati ulteriormente rispetto a quello che può essere stato precedentemente e quello che è stato l'impatto sulla società in generale della precarizzazione. Cioè, la riforma Gelmini ha avuto un impatto fortissimo sulle scuole superiori, che ora si sta vedendo, ma sull'università, diciamo, noi siamo quelli che hanno visto un po' il passaggio, come siamo quelli che sono arrivati a Firenze, perché a Firenze c'era un modo di vivere di cui appunto si parlava ora, e noi siamo arrivati anche, io personalmente sono arrivato attratto da questo modo di vivere, le piazze e una resistenza che quella città, che quella forma di città costruita attorno a quel modo di vivere ti dava, e che non si uniformava a quello che era il modo di vivere centro commerciale, macchina, casa, eccetera, che il territorio urbanizzato in generale, no, offre. Però siamo appunto quelli che hanno visto anche questa cosa scomparire. E quegli studenti, diciamo, non riescono più ad adesso, in una università che è diventata una corsa appunto alla professionalizzazione, cioè devo finire il prima possibile, no? E l'unica cosa che mi fa da questa università è un lavoro, e quindi non c'è niente di più che questo. Gli studenti sono oramai anche alla rappresentanza, eccetera, cioè c'è una grande difficoltà, e ci sono anche delle questioni della vita quotidiana appunto che c'entrano. Cioè, la prima tipologia in realtà di casa che è stata aggredita dalla turistificazione, da Airbnb nel centro storico, sono le case degli studenti. Cioè, le case degli studenti erano quelle tipiche case che non venivano ristrutturate, che la famiglia lasciava lì e però dava agli studenti. Non sono una cosa secondaria, questa cosa è una cosa personale, non è presente niente in questo, però è un discorso a cui tengo. Cioè, però, insomma, Bifo e gli altri ci hanno fatto su anche un film, no? Quello del trasloco, già negli anni 90, raccontando la storia di casa loro, della loro casa appunto in centro a Bologna, che veniva svuotata e che era ripercorrendo quella che era stata la storia dagli anni 70 in poi, no? Cioè, dentro quelle case è stato costruito un abitare collettivo che, secondo me, in un certo senso è stata una commistione tra classi sociali, tra persone di estrazione diversa, di origini anche diverse, dove si è realizzato un abitare collettivo che è il nucleo familiare stile borghese, che comunque è più o meno quello universalmente accettato, non consente. In quella frangia sono state create, appunto, è stato creato anche un modo diverso, secondo me, di convivere e di abitare la città. E secondo me, proprio per quello, quella tipologia, appunto, è sempre stata attratta dal centro storico, dalle case del centro storico, perché quelle case sono state costruite per un abitare collettivo, cioè in un mondo in cui non esisteva la famiglia, mamma, babbo e figlio e basta. Esistevano, no, le famiglie che vivevano in un'intera palazzina, che avevano tutti i piani, e che il negozio a piano terra era appunto quello che riversava sulla strada la vita sociale, appunto, degli abitanti. E quindi, appunto, c'è un legame forte tra queste cose, c'è un legame forte tra quello che è il discorso dell'architettura e la città, e questo discorso della giustificazione, proprio perché la giustificazione erode quell'ultimo elemento di urbanità, cioè quegli spazi che sono sociali per dato di fatto, cioè per eredità, cioè che essendo stati costruiti attorno a un valore d'uso, attorno a un modo di vita, tendono a rigenerarlo. Cioè questo, insomma, anche la sociologia, no, dice che comunque è una relazione bionivoca, no, quella tra spazio e chi lo abita, cioè chi tu fai lo spazio, ma lo spazio che genera anche te. E quindi quella resistenza degli spazi storici ha preservato un'urbanità che è stata cancellata dalle politiche, dalla dimensione economica e dalle soprattutto teorie filosofiche, insomma, che nel Novecento hanno costruito una cosa diversa, che non è una città, che non ha urbanità. Allora, la cosa centrale è l'università di architettura, nel momento in cui si erode quell'ultima frangia di urbanità, dovrebbe porsi la domanda della sua ragione di esistere, perché se si fa scomparire l'urbanità, possiamo fare scomparire tranquillamente anche l'architettura, quindi risparmiamo tutti, no? Si pagano meno tasse, insomma, anche noi ci risparmiamo un po' di meno. Ecco. Un'architettura al servizio. Sì, cioè, nel senso, se l'architettura si occupa di un... Nel senso, l'architettura è nata dai monumenti, no? E aveva un'accezione molto particolare, ma era un'accezione che contemplava appunto un concetto di beni comuni. E infatti, appunto, come beni comuni, ampliando un attimo il discorso, poi passo subito la parola, anche, diciamo, facendo parte di varie realtà cittadine, credo che appunto la caratteristica del turismo, della turistificazione in particolare, di nutrirsi di beni comuni, di trasformare beni comuni in valore, perché questa è, se questo è forse un po' Harvey, no, che lo dice, cioè, ha questa caratteristica ed è legata fortemente appunto alla generazione di beni comuni. Allora anche tutta la nostra vita come movimento, spazi sociali, tutte quelle che sono le lotte che conosciamo, è continuamente aggredita e rincorsa da questo fenomeno, perché non c'è un luogo sicuro, no? Ogni volta che si perde un quartiere in questa città o in generale, no? Si pensa, vabbè, arretreremo, però non c'è un posto sicuro, perché ovunque si vada, cioè Barcellona per esempio ha questo fenomeno, ha anche una diversa chiarezza, perché si vede direttamente trasformare un territorio industriale, no, in quello che è la turistificazione. Qua si pensa che il motivo sia il pregio degli edifici di parecchi anni fa, ma in realtà anche quello che viene generato, lo student hotel ci insegna appunto che tutte le associazioni e le realtà locali possono diventare uno strumento di estrazione di valore da quello che si costruisce appunto noi anche come spazio. Allora, questo discorso sulla turistificazione è stato anche molto utile, credo, per quello che è stato il lavoro in questi mesi, anche per ricucire appunto quello che è il discorso, chi sono i nuovi padroni, quali sono i meccanismi che ci aggrediscono, e anche per trovare un attimo di chiarezza, insomma, all'interno di una situazione politica appunto molto variegata, ma che comunque si è ritrovata credo a livello fiorentino anche come attorno almeno a un elemento chiaro, no? Di un'aggressione di un certo tipo, quindi credo che questo sia il valore forte di questo fenomeno della turistificazione, cioè fare vedere il limite estremo della mercificazione della vita e fare capire che quello da cui attinge la sua forza è esattamente la nostra vita, la nostra costruzione di qualcosa di altro. Quindi ha bisogno di noi, ma siamo noi che, standoci dentro, possiamo appunto mettere sabbia negli ingranaggi.